La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Eccoci qua, 16:07 prime 57 secondi in questo giovedì 27 ottobre, in diretta dagli studi di Milano. Vi saluto e vi ringrazio. E se mi avete già sentito anche stamattina, vi risaluto e vi ringrazio comunque per l'ascolto della versione di Oscar. Oggi è una giornatona dal punto di vista banco finanziario, perché ne è partita la lettera da Palazzo Chigi per il Consiglio Superiore della Banca d'Italia e pare che il nome dentro sia Visco, ma io per questo vi rinvio ai primi commenti a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, che è un sostenitore della conferma del governatore. Io no, però il pluralismo della Banca d'Italia non c'è, ma invece Radio 24 c'è e quindi vi rinvio a lui. Ma è un'altra giornata molto più importante della notizia di Visco, su cui l'Italia ha fatto tanta, secondo me, polvere di troppo, perché tutto sommato le competenze che restano alla Banca d'Italia, io lo dico a mandorla, non sono poi più così fondamentali. Perde anche quella sulle BCC dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Invece è una giornata storica, perché la BCE ha adottato l'inizio della retromarcia sul quantitative easing, e quindi questo lo commenteremo, inizieremo a commentarlo anche noi, oltre che Sebastiano Barisoni, dopo le 16:30, perché è un fatto storico, a mio giudizio, per fortuna. Io non sono mai stato un grande sostenitore, pur riconoscendo che San Mario Draghi ci ha salvato la ghirba con quei 300 miliardi, ma a lungo andare l'espansione del bilancio delle banche centrali diventa una distorsione del mercato per alcune classi di asset. Lo vedremo dopo le 16:30. Ma intanto facciamo il punto anche di una misura importante che in questo fine di legislatura, mentre oltretutto si chiude anche la vicenda della legge elettorale approvata, quindi anche questo, come vedete, quante cose in un giorno, ma grazie al cielo in questa fine di legislatura un po' concitata, oggi è il giorno in cui l'Italia si mette un passo avanti rispetto per una volta agli altri paesi europei, perché è tra le prime a recepire un regolamento, una direttiva comunitaria, quella sui pagamenti elettronici, la sigla è PSD2, è un atto molto importante. Sui giornali ne avete sentito parlare da metà settembre in poi, quando il governo emanò il Consiglio dei Ministri lo strumento per il recepimento, che è passato in Parlamento, e il tema che fu molto trattato sui giornali è quello del POS, obblighi di POS per disporre il pagamento a chiunque lo chieda tramite, quindi, la moneta elettronica, moneta digitale invece che per cassa. E ci furono le prese di posizione dei rappresentanti delle professioni, dei commercianti e così via. E io vi chiedo, se volete intervenire su questo, 800240024, siete comunque favorevoli all'estensione e anche alle sanzioni per chi non avesse il POS di fronte alla vostra richiesta di pagare con moneta digitale invece di cash, perché stiamo andando verso questa direzione. E però è una misura molto importante, anche perché oltre a questo in realtà c'è tutto, almeno un doppio blocco di questioni nel recepimento di questa direttiva, molto molto importanti per chi crede nel fintech come me, Carlo Alberto e tutti i compari dei Conti della Belva che ogni sabato vi teniamo compagnia. Cioè, sia un grande problema legato alla tutela della privacy di chi userà sempre di più le transazioni elettroniche per pagare, e dal punto di vista finanziario cosa vuol dire per gli intermediari bancari e non bancari nella finanza, la tutela dei dati verso terzi e così via, e dall'altro anche la cyber security, cioè la sicurezza, visto che in realtà le violazioni anche a reti e dati di grandissimi intermediari sono all'ordine delle settimane, cioè ogni settimana ne avviene uno di grande gravità nel mondo, tanto per essere chiari, e sono cose anch'esse che ricadono in questa direttiva. Allora abbiamo pensato, malgrado quello che succede, di cominciare facendo il punto esattamente su la direttiva europea dei pagamenti elettronici, ed è con noi Sergio Boccadutri, che è stato responsabile, è stato il relatore, lui è responsabile innovazione del Partito Democratico, ma è stato il relatore appunto dell'approvazione. Grazie di essere con noi, Boccadutri. Buongiorno Giannino, buongiorno agli ascoltatori. Allora, cominciamo diciamo dalla questione che arriva a tutti, però io poi le chiedo anche sia sulla privacy sia sulla sicurezza di spendere delle parole, perché sono questioni che magari al pubblico generalista sfuggono, ma sono fondamentali se vogliamo pensare che il fintech davvero serva a rendere più trasparente la finanza, però a quel punto deve essere sicuro. Allora, alla fine, il combinato disposto delle misure che avete approvato sugli obblighi di posta e le sanzioni, come è congegnato? Allora, è congegnato in questo modo. Abbiamo modificato la norma che prevedeva l'obbligo di accettazione. Attenzione, non è un obbligo di avere la macchinetta del POS. Poi uno può accettarla anche con dei POS virtuali, perché questo è molto importante, perché il mercato sta andando lì e significa più concorrenza e anche prezzi migliori per i merchant, cioè per i commercianti. Per i commercianti. Significa, noi abbiamo escluso alcune merci, non categorie insomma di commercianti, ma alcune merci dall'obbligo di accettazione. Perché? Perché ci hanno posto un problema, come i distributori di benzina piuttosto di tabacca, e ci hanno detto: attenti, che noi quando, sulla benzina abbiamo una marginalità così bassa, perché le accise le conosciamo, non devo dirlo a lei, Giannino, esatto. E quindi la commissione si mangia tutto. A questo punto noi abbiamo escluso i carburanti di autotrazione dall'obbligo di accettazione. Attenzione però, se io però compro dal benzinaio il tergicristallo, faccio la macchina, lì l'obbligo di accettazione esiste. Quindi vale solo per i carburanti. I carburanti. Per i tabaccai allora invece abbiamo escluso per i valori bollati, perché lì prendono una fifi sostanzialmente a prescindere da quanti ne staccano. Ne abbiamo escluso il pagamento in quel caso, quindi tabaccheria, delle sanzioni, delle multe, e per il pagamento del bollo. Attenzione, quindi il tabaccaio invece quando vende una gomma da masticare, vende le sigarette piuttosto che un giocattolo, invece deve accettare. In questo modo sostanzialmente... Quindi solo valori bollati o multe pagate dai tabaccherie. È bollo. Perfetto. A questo punto il Ministero dell'Economia, il MES, insieme al MISE, può emanare la famosa decreto che prevede una sanzione fino a 30 euro, equiparato a chi oggi nel nostro ordinamento non accetta denaro contante, ha una sanzione fino a 30 euro. Noi diciamo la stessa sanzione fino a 30 euro per chi non accetta pagamenti con carta. Questo è il punto sulle sanzioni e sull'obbligo di accettazione. Appunto la PSD2. Ma la sanzione di 30 euro è per ogni accettazione rifiutata, quindi ritirabile? Sì. Ecco. Certo, non è l'obbligo. Chiariamo, di avere perché la quando esatto, perché quando a settembre ci fu la cosa sui giornali, noi venimmo alluvionati di lettere di professionisti che dicevano: e chi se ne frega? Io non la prendo con 30 euro, che mi frega? Pago 30 euro, buonanotte. Ecco, chiariamo che non è così. Su ogni mancata accettazione, quindi a questo punto quando il consumatore si vedrà rifiutato una carta dove magari però mi ha rimessa lì nell'adesivo sulla vetrina, la vetrinetta dirà: guarda, adesso però tu mi fai pagare, se no ce l'hai, quello deciderà se è meglio la sanzione piuttosto che far pagare con la carta il commerciante a quel punto. Oh, invece la riflessione che avete fatto sulla tutela della privacy qual è? Beh, lì abbiamo fatto, secondo me, abbiamo fatto un bel lavoro. Anche allora, a me pare, siamo, la verità, almeno da quello fatto, che ho letto. Allora, innanzitutto abbiamo fatto un lavoro su due versanti. Uno, coordinare al meglio tutte le disposizioni col nuovo regolamento privacy europeo che entrerà in vigore il 25 maggio del 2018. Cioè, diciamo, il governo comincia a predisporre l'impianto normativo delle norme della PSD2, quindi le norme sui pagamenti, guardando al fatto che il 25 maggio cambia tutto e ci sarà un nuovo regolamento europeo. Questo è il primo punto. Il secondo punto invece riguarda il consenso. Sostanzialmente cosa significa? Io ogni volta che do il consenso ad una terza parte per andare poi sul mio conto o a guardare il conto perché magari fa prestazioni di servizi di informazione sul conto oppure a operare sul conto, la banca deve assumere il consenso e non può obiettare, e questo è giusto perché aiuta la concorrenza, perché ovviamente altrimenti si potrebbero creare dei blocchi. Cosa accade però? Molte piccole app che stanno nascendo, uno dà il consenso, dà anche in modo molto facile, e poi magari dimentica, cambia telefono, non lo usa più e così via, di averlo dato. Noi diciamo che a questo punto la revoca, puoi darla, la revoca del consenso precedentemente dato, anche alla banca, che dovrà predisporre sostanzialmente nel suo portale un album, un registro, un elenco di tutti i consensi che ha dato alle terze parti. Questa cosa, tra l'altro, prelude anche appunto, in futuro a proprio un vero registro dei propri consensi dati in giro. Questa cosa, mi perdoni di sottolineare, questo obbligo aggiuntivo per gli intermediari finanziari, cari ascoltatori, è è fondamentale. Perché? Perché attenzione, l'anno prossimo, oltre che la MiFID aggiornata e così via, entra in vigore anche una nuova direttiva, e questa direttiva è sulla, tra virgolette, portabilità dei dati finanziari e bancari, e agli intermediari bancari questa cosa creerà un problema, come è evidente, perché vivevano anche facendo reddito sul proprio cliente profilato. La portabilità rende ancora più importante, lo sottolineo tre volte, il vostro consenso. Quindi questa cosa io la considero molto molto importante. Direte, stiamo parlando di norme tecniche, vabbè, quanto ci state rompendo le scatole. No, no, questa cosa in vista degli sviluppi futuri del settore è molto molto molto importante. Grazie di averci, insomma, che sia, perché in realtà bisogna pure riconoscerlo quando il legislatore si mette avanti, no? Allora, altra questione su cui la sicurezza, perché la sicurezza dei dati di chi paga e dei dati di chi tiene, è una sicurezza, a mio giudizio, molto molto più a rischio di quanto non sembri. E quindi? Allora, innanzitutto partiamo da un dato, un numero. Le frodi in Italia relative a strumenti di pagamento sono pari allo 0,19 di tutto il transato. Questo è il dato di partenza. In ogni caso, noi in una società molto più digitale, dove l'e-commerce aumenta esponenzialmente, ovviamente non significa che possiamo appunto dormire tranquilli. La PSD2 introduce degli strumenti di autenticazione forte, molto importanti, che possono anche avere un impatto sulla user experience, ma da questo punto di vista poi ovviamente saranno delle regole tecniche che sta per emanare l'EBA, che è appunto un'autorità bancaria europea, esatto, che lavora su questo, che dovranno quindi essere adottate da tutti gli istituti di pagamento al fine di aumentare il livello di sicurezza di ogni pagamento, soprattutto di quelli fatti con le app. Ecco, esattamente. Ed è questa una delle questioni su cui l'ABI in Italia dice: ma noi spendiamo già molto, ma dovremmo spendere un mucchio di più. Cari ascoltatori, non fate pagamenti quando siete in aree, per esempio, a wifi non criptato, perché anche un bambino vi può entrare dentro e può entrare nel conto. Tanto per dirla, cosa che non è automatico che la gente sappia. Quindi il problema è che gli intermediari devono tre volte purtroppo spendere molto di più. È ovvio che poi lo pagherete voi come cliente, ma ne va della sicurezza di queste faccende qui, perché altrimenti con gli sviluppi futuri, che saranno una fortissima accelerazione sulla fintech, l'esposizione al rischio attuale, che è molto più elevato di quanto voi non crediate a casa mentre ci ascoltate o al lavoro, ecco, ha bisogno di questi primi rafforzamenti. Io devo dire, su tutte e tre questi tre settori, soprattutto sul secondo e sul terzo, io applaudo al fatto che poi ci siamo riusciti anche prima della fine della legislatura, ci siamo riusciti prima di altri paesi europei. Però adesso vediamo un po' l'osservazione di chi nel dibattito di settembre criticò soprattutto il primo punto. Quindi abbiamo con noi il responsabile del settore credito di Concommercio, Ernesto Ghidinelli. Buon pomeriggio e grazie. Lei che dice, Ghidinelli, intanto del primo punto, quello come si è risolto a vostro giudizio? Beh, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vorrei precisare che l'obbligo di accettazione di pagamenti con carte di credito e di debito deriva da una normativa nazionale e non è contenuto né nella direttiva né nel regolamento europeo. Premesso questo, nelle disposizioni comunitarie troviamo aspetti di interesse relativamente alla trasparenza, condizioni di trasparenza nei consumatori. Poi nella relazione approvata ieri ci sono questi aspetti di apertura interessante verso servizi innovativi oppure verso il ruolo che possono avere i sistemi associativi nella promozione di moderni sistemi di pagamento. Però il problema, a nostro avviso, delle commissioni pagate dagli esercenti non è stato assolutamente affrontato. E sono state individuate alcune merci, come si diceva, tra l'altro non riscontriamo la rivendita di giornali e riviste, che è un altro settore che ha delle strutturali criticità, in particolare per le tipologie di operazioni che fa. Però, come dicevo, non è stato affrontato, a nostro avviso, il tema delle commissioni pagate dagli esercenti, che vorrei precisare non sono le commissioni interbancarie. Questo abbassare le commissioni davvero vorrebbe dire aumentare le condizioni di sicurezza negli esercizi commerciali. Ora, il settore dei carburanti è vero, è stato in parte escluso, però il problema rimane. Il problema della sicurezza negli esercizi commerciali, nei distributori di carburante, nelle tabaccherie rimane, perché purtroppo le commissioni sono ancora a un livello superiore a quello che la struttura dei margini di quei settori consente. E questo è una grossa penalizzazione. Noi avremmo auspicato che venisse affrontato il tema della commissione interbancaria, che è vero che è stata ridotta, però è come se fosse una materia prima nel ciclo di produzione dei pagamenti. È come se mi dicessero compra l'automobile perché il prezzo dell'acciaio è sceso. In realtà mi interessa il prezzo dell'automobile e di conseguenza ecco che abbiamo un grande numero di imprese che sono ancora fortemente penalizzate, nonostante le commissioni interbancarie siano scese a livelli assolutamente interessanti. Però dobbiamo, come ripeto, dobbiamo guardare le commissioni che pagano le imprese, e è vero che per alcuni si sono abbassate, ma si sono abbassate per le imprese più strutturate, per le imprese che hanno un potere negoziale nei confronti delle banche. Noi abbiamo una serie di micro, piccole imprese che spesso magari hanno anche tensioni di rapporto con la banca e dovrebbero essere loro a pretendere l'adeguamento delle commissioni. Pensiamo solo alle imprese che hanno delle posizioni in sofferenza, e i dati ci dicono che in totale ci sono 1.300.000 affidati in sofferenza, di cui circa 500.000 sono imprese, e all'interno di queste alcune centinaia di migliaia sono piccole, micro imprese dei settori del commercio, del turismo, dei servizi. Ora, come ripeto, riconosciamo che sono stati fatti alcuni passi in avanti, però quello che ci manca ancora è questo riuscire a trasferire questi benefici che prevede il regolamento europeo concretamente in quello che le aziende, e in particolare quelle di minori dimensioni, devono pagare. Allora, Boccadutri, prendendo atto che si è messo il tetto alle commissioni interbancarie a seconda delle diverse tipologie di carte, cioè per quella di debito e per quella di credito, sai, lo 0,2 non può essere oltre lo 0,2 o lo 0,3% del valore dell'operazione stessa, però come sente l'osservazione di Ghidinelli e di Confcommercio, prendiamo atto di questo, però la questione delle commissioni pagate dalle imprese non è affatto risolta, e quindi questo continuerà a escludere una fetta comunque significativa del mercato dai benefici del pagamento digitale. Che dice Boccadutri? Beh, anzitutto diciamo quanto vale quell'intervento del regolamento sulle commissioni interbancarie a livello europeo, perché non ci rendiamo conto, vale 10 miliardi di euro, che ovviamente non saranno ristornati ai consumatori, nel senso che non interverranno poi sui prezzi. E secondo, noi non potevamo intervenire sulle commissioni, sarebbe stato un prezzo amministrato e ovviamente la commissione ci avrebbe detto, cioè adesso non è. Però c'è un punto, e io di Ghidinelli, intanto è vero che ho accolto una proposta di Concommercio nel parere, quello che le associazioni possono svolgere un ruolo per contrattare, cioè dare più forza quindi ai commercianti attraverso appunto le realtà associative per contrattare, e quindi nell'ambito, nella dinamica del mercato, e qui da una parte con l'ingresso di nuovi operatori, quindi questi instant payment che offrono ormai sotto i 10 euro, zero commissioni e così via, dall'altro una forza contrattuale. E poi il punto vero, che nessuno però ancora non è andato appunto ad esaminarlo, è che il regolamento sulle commissioni interbancarie dà dei poteri al merchant molto più forti di quelli di prima, vietando alcune clausole che prima i circuiti utilizzavano. Ad esempio il fatto che sei obbligato ad accettare la carta se il cliente te la propone, anche quella più cara. In questo caso invece il commerciante può rifiutare la carta per lui più cara, quindi rimette in mano sostanzialmente al commerciante la scelta di decidere quando vuole offrire un servizio facendo pagare una carta magari per lui più cara perché è un cliente alto spendente, piuttosto che un caso episodico dire no, quella carta non l'accetto, se ce n'è un'altra di debito magari più meno onerosa, per me è meglio. Ghidinelli, ha sentito, se fossero intervenuti su quel tipo di commissioni sarebbero stati prezzi amministrati, lei che dice? Ma diciamo, questo è vero per quanto riguarda la regolamentazione comunitaria, però teniamo presente che in Italia viene introdotto un obbligo, di conseguenza un obbligo che non esiste negli altri paesi europei, dunque è vero che ci sono dei problemi di concorrenza, ma è vero anche che quando c'è un obbligo di solito il fornitore viene rafforzato. Ciononostante io vorrei aprire anche però un aspetto, andare a considerare quello che è successo negli ultimi anni in cui formalmente l'obbligo c'era, abbiamo avuto un incremento del numero dei POS in Italia, sono passati da 1,4 milioni a 2,2 milioni, in Francia ne abbiamo circa 1,5 milioni, in Germania ne abbiamo 1,2 milioni, dunque abbiamo una rete infrastrutturale di POS, anche il numero di operazioni, teniamo presente che partivamo da molto lontano rispetto ad altri paesi europei che sono soprattutto la Francia e il Regno Unito, e in questo caso da 1 miliardo e 700 mila operazioni del 2011 siamo passati a 3 miliardi di operazioni, oggi siamo molto oltre nel 2017 rispetto a queste cifre, e quello quello che non accogliamo è che vengano messe queste sanzioni rispetto a un mercato che si sta muovendo in qualche modo già sulla spinta di tutti questi provvedimenti, e le consideriamo inutilmente punitive soprattutto per i soggetti più deboli, perché è chiaro che le imprese strutturate con molti punti di vendita possono negoziare col sistema bancario. Questo è il grande divario. Continuo a essere con voi, non ne faccio una guerra di religione, però mi sarebbe piaciuto evitarle le sanzioni, stante che appunto il passo avanti c'è, è evidente, e secondo me diventerà ancora più rafforzato per il convergente, la convergente evoluzione sia della tecnologia e di chi la pratica in maniera diffusa ormai, sia dell'interesse stesso degli intermediari, che a quel punto avranno un interesse proprio anche insieme ai merchant, come dice Boccadutri, ad abbattere anche le imprese. Però per il momento non è ancora così, e per le imprese piccole questo è un po' un problema, devo dirvi la verità. Comunque lo vedremo nel tempo, perché intanto queste sono norme che hanno bisogno di un monitoraggio. Io ringrazio però Ghidinelli, per una volta io non mi sono messo a urlare per il fatto di aver sottolineato che siamo un paese che ha questo divieto che altrove non c'è, ma io non volevo entrare nella sfida ideologica più cash meno cash, volevo semplicemente spiegare a chi è in ascolto che abbiamo approvato questo recepimento per una volta prima di altri e di che cosa si parla. E ringrazio per questo l'onorevole Boccadutri e Ernesto Ghidinelli. Adesso andiamo a capire che succede in borsa e pubblicità e poi subito iniziamo il commento su finalmente cade lo scudo e che fa l'Italia, si torna a tremare con lo spread nel tempo, vedremo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati qui in diretta. Fatemi vedere che ho collegato, però, perché sono rimasti i vecchi ospiti. Allora, giornata per certi versi storica. Storica davvero, perché c'è l'incastro concomitante di due vicende. Una che riguarda solo l'Italia, che su cui l'Italia, secondo me, ha molto sopravvalutato la sua enfasi, perché Gentiloni, proprio poco dopo che era cominciata la nostra trasmissione alle 16, ha confermato che nella lettera inviata al Consiglio Superiore della Banca d'Italia, il nome che si riunisce venerdì mattina, come sapete, per procedura si passa a quello per poi andare alla nomina del governatore della Banca d'Italia, il nome indicato dal governo è Ignazio Visco, quindi piena conferma, malgrado il diavolo 4 fatto da Renzi, senza dibattito pubblico. Io volevo un dibattito pubblico, lo chiedo da anni, su questi anni, sulle decisioni regolatorie assunte nel nostro paese, ma invece, comunque, Gentiloni dice a Renzi, neanche per idea, la tua contrarietà non è condivisa dal governo, e quindi Ignazio Visco. Ma io temo, questa è la mia opinione, che la decisione veramente storica, molto più rilevante, presa in queste stesse ore, è quella della BCE, perché la BCE ha formalmente deciso nella riunione odierna del Consiglio Direttivo di iniziare la retromarcia sul QE, e questa credo che sia una decisione, con tutto il rispetto, tutto l'affetto, tutta la stima per la Banca d'Italia, molto più importante della conferma di Ignazio Visco alla guida della Banca d'Italia. Allora, abbiamo due ospiti per spiegarci e commentare. Da Francoforte, dove ha seguito e ha twittato in diretta dalla conferenza stampa del Presidente Draghi, Alessandro Barbera della Stampa, grazie di essere con noi. Ciao Oscar, buonasera. E il nostro compare del sabato, Mario Seminerio. Grazie Mario di esserci. Grazie a te, buonasera a tutti. Allora, Alessandro, dacci i particolari tecnici, come è modulata e il linguaggio, perché tu hai commentato quello, io sono molto d'accordo con te, il linguaggio che ha usato Draghi dice molto, dice tutto, oltretutto non è stata una decisione unitaria. Spiega a chi è in ascolto, la decisione in che cosa consiste? La decisione consiste in quello che i mercati si aspettavano, e già questo, diciamo, è significativo. Draghi il Consiglio se ne è guardato bene dal cambiare le aspettative, probabilmente questo avrebbe creato scossoni che tutti temevano. Ricordiamo che quando il cosiddetto tapering lo fece la Federal Reserve qualche anno fa fu un disastro. Da gennaio dell'anno prossimo il ritmo degli acquisti scenderà da 60 miliardi al mese a 30. E proseguirà per 9 mesi, questo peraltro era il termine che aveva chiesto la Bundesbank per il piano. Peccato che però Draghi non abbia detto che il programma avrà termine in settembre, ma ha detto che il programma è open-ended, cioè, per dirla più chiaramente, potrebbe avere un'ulteriore coda. Qual è il punto? Il punto è che Draghi ha ceduto alle, come era inevitabile che fosse, perché non aveva più argomenti forti per dire no, ha ceduto alla richiesta dei paesi nordici che volevano, dei tedeschi, i suoi alleati, gli olandesi, eccetera, che volevano l'inizio della retromarcia. Dall'altra, con la sua nota, con i suoi noti doti di grande equilibrio, è riuscito a far sembrare questa decisione una decisione non così drammatica. La verità è che gli acquisti si dimezzano e per l'Italia significa entrare in una fase nuova. Per ora lo spread sui mercati non ha avuto grandi scossoni, anzi è leggermente sceso, quindi l'operazione, come al solito, sta funzionando. Draghi è molto abile in queste partite. Ora però, naturalmente, ripeto, da gennaio iniziano i guai, perché significa che in buona sostanza la quantità di titoli pubblici italiani che vengono acquistati dalla BCE si dimezza proporzionalmente, e quindi il rischio Italia sui mercati non è più completamente a carico di Francoforte come è stato gli ultimi 3 anni, ma torna ad essere a carico del governo italiano. Ma l'interpretazione del fatto che come Draghi ha informato, il voto non è stato, la votazione non è stata unanime, significa che appunto è il fatto di rimanere aperto oltre settembre ciò che ragionevolmente ha motivato le obiezioni dei nordici, così? Beh, è abbastanza noto che i tedeschi volessero che il piano avesse fine a settembre del 2018, e in nome di questo, peraltro, questo significherà che i tassi, anche tutta la struttura dei tassi, il tasso di sconto principale, il tasso sui depositi che al momento è negativo, rimarranno fermi almeno fino a quella data. È probabile, c'è da scommettere, che la verità è che questa partita, questo dibattito interno al Consiglio sia rimasto aperto, sia un punto sul quale, quando Draghi dice open-ended, dice che il programma non avrà fine, poi però io ho l'impressione che Draghi voglia per capire se sarà davvero open-ended. Io ho l'impressione che Draghi voglia consegnarlo ancora aperto al suo successore, e temo che invece non avverrà. Lo temo per lui, perché io spero invece che l'uscita sia ragionevolmente non troppo diluita, perché sono da tempo convinto che su alcune classi di asset finanziari la distorsione portata da acquisti tanto rilevanti, che hanno avuto un effetto straordinariamente positivo, Draghi in questo è stato straordinario, però alla fine diventavano troppo distorsivi per il mercato. C'è anche un punto che riguarda il tempo, la durata intanto dei titoli che rimangono lì, perché a molti non è chiaro, e comunque nel comunicato delle decisioni di oggi c'è scritto che il reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli avrà un quadro prolungato di tempo, quindi non è una cosa che si disinveste dall'oggi al domani. Mario, che ti sembra di questa insieme di cose, ma di una decisione assunta e anche del problema che resta aperto all'interno della BCE? Il fatto, la decisione non è stata unanime, come ha detto Draghi stesso, nessuno si aspettava l'unanimità ovviamente, però che nel complesso questo quantum e l'estensione temporale, che pur rimane aperta, erano nel novero degli eventi probabili. Il fatto che i mercati abbiano reagito con un indebolimento dell'euro contro dollaro, che in questo momento sta perdendo circa lo 0,8% rispetto a ieri, con un sospiro di sollievo sull'obbligazionario, che ieri aveva avuto una risalita dei rendimenti piuttosto robusta, in parte anche al traino degli Stati Uniti, ma ora il Bund decennale è 4 basis point meno di rendimento, il BTP decennale è 7-8 basis point in meno, a dimostrazione del fatto che il mercato sta premiando i paesi più ad alto rischio, più ad alto beta, tipicamente il nostro, quindi finora va tutto bene, ancora una volta lode alla maestria di Draghi nell'evitare di far panicare il mercato. Però diciamolo, riconosciamolo, sta battendo il precedente della Fed in maniera di 100-0. Ecco, però. Vabbè, il precedente della Fed è stato un clamoroso errore di comunicazione di Bernanke nel 2013 che ha veramente fatto panicare il pianeta, soprattutto ricordo i mercati emergenti stante la loro relazione col dollaro. C'è però un problema, nel senso che al di là del compiacimento per l'abilità dialettica odierna di Draghi, il problema è ben noto a tutti, sono i limiti quantitativi degli acquisti, cioè un terzo per ogni paese e un terzo per ogni singola emissione. In alcuni casi, segnatamente il Bund tedesco, per evidenti motivi, c'è un problema di scarsità degli acquisti. È vero che nel 2018 andranno a scadenza quantità di Bund rilevantissime e quindi qui si creano munizioni diciamo per il reinvestimento e in parte anche per gli acquisti netti. Però c'è anche un altro punto da segnalare, questo lo segnalano veramente in pochi. Ad esempio Draghi in maniera rutinaria dice che in caso di esigenza loro possono sempre riavviare il processo, aumentare gli acquisti eccetera. Ma in realtà se non si va a toccare le soglie degli acquisti, quindi il limite per paese emittente entro la capital key della BCE e il limite per singola emissione, questo evento non può avvenire. Nel senso che si va a sbattere contro il tetto. Quindi qui, vedi, a differenza della Fed, che ovviamente opera su un paese unico e non su una regione, non su una unione monetaria e non ha questi problemi, la Fed può riavviare la procedura di acquisto quando crede, se le condizioni lo riterranno opportuno. La BCE no, perché la BCE resta già vincolata a questi tetti che, ripeto, possono anche essere modificati se in futuro ci fossero problemi, ma il problema rimane. Quindi oggi va tutto bene, magari già dai prossimi giorni cominceranno ripensamenti, critiche e polemiche eccetera, però per ora era fondamentale evitare un violento apprezzamento dell'euro su dollaro, oltre a quello che c'è stato negli scorsi mesi che comunque ha creato un po' di erosione di competitività. Quindi direi che per ora la situazione è stata gestita al meglio, ma onestamente se guardo avanti su un orizzonte temporale non sono particolarmente a mio agio, perché esatto, non vedo grandissimi margini di manovra. Esattamente. Alessandro, hai scritto e firmato oggi un articolo che ho già citato stamattina presto, dicendo Sandro Barbera e Viva la Stampa, che a differenza di altri giornali tenta di attirare l'attenzione delle classi dirigenti italiani sul fatto che inevitabilmente il processo che inizia oggi avrà delle conseguenze di maggiori oneri sul debito pubblico rispetto all'ottimismo delle previsioni pluriennali che sono alla base della legge di bilancio e anche confermate nelle note di aggiornamento al DEF, perché sia pur essendo prudenti sul deficit, quell'1,6 sul PIL sta in piedi solo grazie al fatto che si è ottimisti sulla ripresa, ma si è ottimisti anche sugli interessi da pagare. Ovviamente sai meglio di me che la politica si girerà dall'altra parte, però diciamo quanto si può ragionevolmente pensare che in assenza di incidenti e instabilità finanziarie mondiali questo abbia un impatto? Tu citavi oggi i due scenari, no? Che sono nella nota di aggiornamento del DEF, uno un po' più pessimista, l'altro molto pessimista. Ma a oggi tu su cosa scommetteresti? Dobbiamo sperare che Rosatellum funzioni, hanno provato oggi, quindi speriamo che Rosatellum funzioni. Se Rosatellum funziona, diciamo, c'è la ragionevole probabilità che però aspetta, ci sia un Alessandro, governo e che quel dobbiamo governo spiegare si a casa di fare delle scelte. Cosa vuol dire funziona? Funziona significa che Berlusconi e Renzi poi fanno nascere un governo, questo significa? Che ci sia un governo, non abbiamo ancora la certezza che ci sia una maggioranza una volta votato, nel senso che i sondaggi ad oggi non dicono che c'è una maggioranza esattamente, chiara. Dicono che lo hanno fatto così quindi, per quello, quindi sì. E dunque se ci sarà una maggioranza si assumerà la responsabilità di fare delle scelte giuste o sbagliate, se non ci sarà ci sarà da ridere se non da piangere. Perché se come è probabile il piano lentamente porterà i mercati a diciamo andare a cercare rendimenti più sicuri, ovvero tornare a preferire i bund dei BTP, e se a questo si dovesse associare una forte instabilità politica, beh, insomma, il rischio di ritrovarci di nuovo nella palude nel 2011, ma qualcosa che ci si assomigli, lo dice il governo stesso, lo ammette il tesoro in quel box nascosto a pagina 94. Esatto, 94-95, ma la politica farà finta di niente, Mario, ti pare? Sei più ottimista, Mario? Sì, perché in questo momento, no, per nulla, perché io non vedo alle elezioni, il giorno dopo le elezioni politiche italiane, cioè effettivamente il rischio di una paralisi biblica, oppure che si faccia una grande coalizione frutto di una logorante ragionevolezza per stare entro il vincolo esterno e i vincoli che ci vengono imposti dalla realtà. Dopodiché vediamo come va a finire, però è chiaro che questa legge elettorale non ci porta un certo tipo di esito. Questa legge elettorale è una specie di moltiplicatore di un rischio che ci sarebbe comunque, ma diciamo prudentemente razionato nel tempo da parte della guida della BCE, noi rischiamo invece di accelerarlo di nostro per la scelta che hanno fatto Renzi e Berlusconi. Questo, cari ascoltatori, non mi dite che ce l'ho con nessuno, ma questa legge elettorale nasce da un patto, poi la Lega si unisce a sostenere, che è questo, ed è: non c'è una legge elettorale per maggioranze coese e c'è una legge elettorale in cui i segretari contano più degli elettori. Punto. Bene, allora intanto ringrazio anche Mario Seminario e Alessandro Barbera, e adesso abbiamo le strade e poi torniamo con qualche telefonata vostra. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Allora, inizia la marcia indietro dagli acquisti della BCE. Visco è il nome designato dalla Banca d'Italia nella lettera mandata da Gentiloni, presidente del Consiglio, Consiglio Superiore della Banca, che si riunisce domani mattina. E inevitabilmente i giornali saranno pieni di questo, ma noi abbiamo iniziato con l'approvazione, il recepimento della direttiva sui pagamenti, quindi problemi POS e sanzioni, e vediamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Giancarlo, che ci chiama da Bologna. Giancarlo, prego. Buonasera, salve, buonasera. Volevo soltanto dire che trovo che questo continuo applicare nuovi obblighi sui cittadini sia un'angheria. Non riesco a capire perché in una transazione d'affari tra me e un commerciante una banca ci deve pagare lo 0,3%, che sembra poco, ma è tanto. E prima o poi si riverserà sui prestiti. Primo. In secondo luogo, mi ricorda molto i tempi dei conti gabbietta dei politici, che obbligavano noi a non avere più di 500.000 lire per andare all'estero, mentre loro trasferivano i miliardi in conti. Bravo a ricordarlo, bravo. Basta. Visto che, mi perdoni Giancarlo, c'è chi rimpiange gli anni in cui c'erano i vincoli sui capitali, c'erano i depositi in fruttiferi per le piccole aziende che importavano ed esportavano, mentre invece la politica, come giustamente dice Giancarlo, faceva ben altro con le sue tangenti. Grazie di ricordarlo, perché bisogna avere oramai una certa età per ricordarlo. Ma visto che chi fa rimpiangere l'Italia l'Iretta non racconta che funzionava così, coi vincoli sul capitale e i depositi in fruttiferi, meglio ricordarlo. Grazie Giancarlo. Sentiamo ancora come la pensa Antonino da Padova. Antonino. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, dottor Giannino. Io la chiamo perché, a proposito del POS obbligatorio, io che sono un ginecologo libero professionista, ho avuto da sempre, ma le parlo di 4-5 anni, ho richiesto io il POS, perché per me è una comodità e lo è soprattutto per le mie clienti. Lasciamo stare le questioni della affidabilità, eccetera, del wifi, wired, eccetera. Io le faccio presente una cosa, che è comodissimo per chiunque venda qualunque cosa, anche se stesso. Che l'imposizione per me è sbagliata. Ecco, è solo quello mi rimetto. Allora, mi ascolti, le dico perché. Perché vede, uno che si vede imporre qualcosa in Italia immediatamente si oppone. Sono molto d'accordo con lei. Come la, per i vaccini, la no? È bravo, esatto, ma la psicologia ci insegna, la psicologia cognitiva ci insegna che le psicologie, per così dire, da amigdala, cioè da pancia, non da corteccia cerebrale, sono quelle più diffuse. L'argomento che ha toccato lei è uno dei miei principali, per dire, ma perché se gli altri paesi europei non hanno l'obbligo, non ci abbiamo pensato anche noi, invece che probabilmente mettere in conto un freno aggiuntivo psicologico ai pagamenti digitali, grazie anche al dottor Antonino Padova di Padova, da Padova, che ci ha raccontato la sua idea. Non è solo quella di essere a favore, ma è un'idea su come funziona la psicologia collettiva. Allora, continuate con la 24, Sebastiano Barisoni, commento sulla Banca d'Italia, sulla BCE, e appuntamento con me e Luca Tresi domani alle 8:15 a 24 mattina, e domani pomeriggio alle 16 la versione di Oscar.